Sai sul Radio Wombat. Questa è Wombat. Radio Wombat. 8 Hertz. Thank you. Ecco, no, avevo pisato il mute. Ecco, sì. Scusate, da tanto che non facevo la diretta, diciamo, e bentornati a 8 Hertz su Radio Wombat. Radio Wombat che è nata nel 2016, e quindi questo ormai è il quarto anno sia della radio che anche della trasmissione, che è sempre andata dritto imperterrita con alti e bassi. Quest'anno ci sarebbero un bel po' di novità che mi piacerebbe raccontarvi poi, o farvi più che altro ascoltare nel corso della stagione. Dipende un po' anche dalla situazione, dei decreti, di quello che si riuscirà a fare, di quello che non si riuscirà a fare, e quindi niente, speriamo di andare avanti a sto giro anche un po' di più con la voce e con le spiegazioni. Allora, voi avevate ascoltato un gruppo che si chiamano gli Elder di Boston, in Massachusetts, capitanati da Nick Di Salvo, bassista, e poi in realtà è la formazione abbastanza classica, chitarra, basso, batteria, insomma, però si sente il basso in prima linea, in effetti. In realtà, insomma, la puntata volge un po' su questo tipo di sonorità psichedeliche, diciamo, heavy, pesanti, anche non solo, ma soprattutto, diciamo. Abbiamo proprio iniziato con un pezzo che in realtà era psichedelico per eccellenza, era Voodoo Child di Jimi Hendrix, non so se l'avete riconosciuto, ma penso proprio di sì, rifatto appunto dagli Elders, che è una formazione giovane del 2006, diciamo. Questo era tratto da una compilation, in realtà ancora prima del 2005, che ha tutta una compilation di cover su i brani di Jimi Hendrix, della Redux Records, che è già sold out, diciamo. Questa compilation è insieme ad altri gruppi che fanno parte un po' di questa neo heavy psichedelia, tra cui gli Old Damn Witches, gli Heartless, i Gozu e i King Buffalo. E invece per continuare vi vorrei mettere un gruppo che è un po' più vecchio, che si chiamano gli Acid Mother Temple, per abbreviarli, però in realtà avrebbero tantissimi nomi, come Acid Mother Temple e The Melting Paraiso UFO, Acid Mother Temple SVR, Acid Mother Temple and the Cosmic Inferno, insomma, questo perché hanno fatto una miriade di dischi, tantissimi prodotti dalla loro stessa etichetta. Chi sono, diciamo, appunto un gruppo nato nel 95, l'unico membro che c'è dall'inizio ad oggi, visto che li ho visti un paio d'anni fa, mi pare l'anno scorso a Prato, è stato un bellissimo concerto super psichedelico. L'elemento cardine è Kawabata Mokoto di Osaka, perché in realtà è un gruppo giapponese che ripropone una psichedelia, diciamo, space e hard rock, tra il vecchio stampo e nuove forme, anche più schizzate all'interno delle lunghe improvvisazioni che fanno dal vivo. Questa puntata sarà piena di lunghissimi assoli, quindi se ci sta ascoltando qualche chitarrista al quale gli piace suonare gli assolozzi, insomma, mi sa che stasera gli è capitata bene. Comunque ve lo faccio sentire. Questo pezzo si chiama Pink Lady Lemonade, è tratto da un disco che si chiama KFJC Live from the Devil's Triangle del 1988, che è una compilation live, credo se ho capito bene, di una radio che si chiama appunto KFJC, che è una radio di Los Angeles, Los Altos Hill, californiana. E in questa compilation ci sono appunto anche roba grossa, tipo gli Zanigeva, i Dirty Tree e i Beavis Front. Noi intanto vi lasciamo il pezzo Pink Lady Lemonade degli Acid Mother Temple. Se carica, ma forse non carica, è una maledizione. cari, vediamo. Thank you. attenzione, attenzione, ci sono problemi, tanto per cambiare, vediamo se ora va. Ecco, niente, quindi no, la musichina sotto non ve la beccate stasera, come avevo messo. E, insomma, Acid Mother Temple li sentite ora. Buon ascolto, scusatemi, ma a volte non si capiscono le cose. Questo era il suono live degli Acid Mother Temple. Ora scusate, ci sono stati un po' di problemucci tecnici, speriamo che ora funzioni tutto a modino. Il pezzo successivo è di una band più recente, si è formata nel 2000 e sono i Mastodon. Forse i cultori del genere li conosceranno. Sono un gruppo fondato ad Atlanta, in particolare da due membri dei Lethargy e dei Today is the Day, praticamente due gruppetti di niente, ovvero Bran Taylor e Bill Killer. Quando il fatto vuole che si sono incontrati con Atlanta, con Troy Sanders e Brent Eads a un concerto degli Icon Fire, che sono un gruppo stoner doom, diciamo, che era già conosciuto negli anni, in quegli anni lì. Eppure loro ovviamente hanno avuto queste influenze, sia stoner sia doom, ma anche sludge, e poi si sono, diciamo, via via nel corso dei lavori sono diventati sempre un po' più con delle venature progressive e anni 70, tant'è vero che hanno gettato un po' appunto la base per questa nuova psichedelia heavy dei gruppi, come vi ho fatto sentire, come gli Elder, che sono più giovani e più nuovi. Loro ebbero fortuna sia di critica che di live, anche con il secondo disco, che era Leviathan, che appunto fu disco dell'anno per un sacco di rivistone grosse, più che altro americane. Invece il brano di ora che vi metto è tratto dal terzo album, che anch'esso fu famoso, si chiama Blood Mountain del 2006, sempre per la Relapse, uscirono quasi tutti per la Relapse o Reprise. E appunto in Blood Mountain è il primo dei loro dischi in cui il cantato growl è dimezzato, e sono iniziati a uscire anche cantati più melodici, come anche in questo pezzo che vi metto, e anche appunto più una sorta di new progressive psychedelic stone di tutto di più. Insomma, se vi ha incuriosito la cosa, ascoltatevi. Il pezzo si chiama This Mortal Soil. Sono anche parecchio tecnici. Buon ascolto. We'll be right back. ecco, questi erano i grandi Mastodont. Spero vi siano piaciuti, spero vi piaccia questa puntata, ma ogni volta 8 Hertz è sempre un po' diverso, e appunto speriamo di riuscire a combinare qualcosa anche, diciamo, di live all'interno dello spazio, sempre che tutti questi decreti e privazioni di libertà ci facciano permettere di fare anche semplicemente questo. Vediamo se si sente la musichina sotto. Vediamo. Si sente, vai. Che bello. Vi ricordo, come avete, non so se qualcuno si ricorda un po' di 8 Hertz, era il giovedì. Quest'anno è stato spostato il martedì alle 21.30 e le repliche il venerdì alle 22.30 e il sabato alle 16. Vi ricordo comunque di mandare mail se vi interessa qualcosa, volete chiedere, a postawombat@inseriveria.net. Ovviamente il sito lo conoscete, la M pure. E attenzione che probabilmente cambierà il sito, speriamo il prima possibile, e quindi ci saranno anche tutte delle nuove grafiche, dei nuovi concetti per voi che vi manderanno sicuramente fuori di testa, ecco. Continuando sempre nella puntata, ora vi metto un gruppo che si chiamano i Satan Satyrs, perché a 8 Hertz Satan un po' piace, diciamo, e questa è una storia un po' particolare. Praticamente è un gruppo americano formato in realtà all'inizio da solo un polistrumentista che si chiama Clayton Claytanas Burgess, della Virginia. Praticamente era appassionato sia dei film horror, per cui sia le copertine che un po' i concetti delle canzoni sono un po', diciamo, alla horror anni 70, un po' come fecero i Misfits prima, però per altri tipi di horror, quindi non solo 70. Invece lui un po' in particolare sul 60 e 70. E poi lui stesso cita tra le sue band preferite i Black Flag e gli Electric Wizard, e in effetti ci potete ritrovare entrambi questi aspetti, quindi tra il punk marcio e anche un pochino parecchio tendente al rock e al doom e allo stoner degli Electric Wizard. È molto molto insano rock and roll, insomma. Il fatto vuole che poi, dopo il primo disco, che si chiama Wild Beyond Belief del 2012, tra l'altro il brano che vi faccio ascoltare è tratto proprio da quello, quindi è tutto suonato da lui, a parte qualcosina di un suo amico alla chitarra in un pezzo, mi pare. Ma è finito che è stato, non so se pare, quindi ha formato un gruppo, invitato a suonare al Roadburn Festival, il famosissimo Roadburn Festival che cura appunto tutte queste sonorità, conosciutissimo, diciamo, in tutto il mondo, che è in Olanda. E poi è stato chiamato dagli Electric Wizard stessi a sostituire il bassista per un periodo di live che mancava, quindi insomma una storia veramente assurda dei Satan Satyrs. Ora ve li metto, questo è tratto dal primo disco che si chiama Wild Beyond Belief e il pezzo si chiama Electric Witch Hipper. Buon ascolto. Satan Satyrs su 8 Hz, trasmissione all'interno della magniloquente Radio Wombat. E, vi faccio un po' riprendere con un pezzo molto più pop, diciamo, ma comunque ci sta, perché su 8 Hz i sentieri si intrecciano e i percorsi pure, per cui si può saltare di palo in frasca, ma rimanendo sempre coerenti con la puntata, anche perché la musica di coerenza poi alla fine ce ne ha un pochino poca, se non concettuale, ma a livello formale. Gli intrecci di note e di strutture sono tantissimi, diciamo. E quindi vi volevo parlare degli Stone Roses, che in realtà sono un gruppo appunto super mega pop inglese di Manchester, formatosi negli anni 80, nell'83, che fecero il primo disco che, a detta di alcuni, è il disco più bello di sempre, l'album più bello di sempre. Però vabbè, a parte queste cose, insomma, per far capire quanto ruppero all'interno degli anni 80 un po' con la musica passata, anche se ne riprendono tantissimo appunto dal flower power degli anni 60 inglese, per proporre una cosa un pochino più all'interno degli anni, che poi ha gettato le basi del Britpop. Fondamentalmente questa è stata anche un po' la fine loro, cioè essere stati il trapasso tra la cosa prima e una cosa dopo, che li ha superati, insomma. Però hanno gettato le basi in questi tre dischi, in questi pochissimi dischi che hanno fatto, e che ai tempi furono nella vetta delle classifiche, sicuramente europee e inglesi, ma anche mondiali. Il pezzo che vi metto è tratto dal secondo album, che era già stato comunque giudicato un pochino peggio, perché è un pochino più diciamo blues, un pochino più hard rock rispetto a delle soluzioni che ebbero nel primo disco. Ma appunto, essendo più hard rock, qui all'interno della puntata ci sta bene. E tra l'altro, insomma, se vi studiate la storia loro, ebbero anche un sacco di problemi legali voluti da loro, perché diciamo rubarono le etichette, gli fece un video a loro insaputa su un loro singolo e si incazzarono tantissimo. E poi fecero anche concerti, un festival in una zona industriale abbastanza pesante, un po' per il popolo, e riuscirono ad andarci tantissime persone, anche se narrano che che a livello sonoro si sentiva parecchio male a causa del forte vento che trascinava un po' la musica dal lato opposto quasi. Vabbè, insomma, tante storie che potete leggere anche un po' sui vari siti. Questo brano si chiama Daybreak di Second Coming, che appunto è il secondo disco del 94 della Geffen. No, tra l'altro loro sono stati un po' il gruppo che ha fatto nascere anche gli Oasis e appunto i Blair, insomma, questi gruppi qua. Ma l'avevo già detto, forse no. Insomma, Daybreak tra l'altro è suonata benissimo, fantasticamente. Insomma, un pezzo da godere all'interno di questa psichedelia un po' heavy e un po' no, questa un pochino meno heavy ma ardua comunque, diciamo. Stone Roses, Daybreak. This is the daybreak and this is the love we make, but love is the law here, you got to know how to love it, yeah. It's more than a mover, you know it takes all fire. We'll be right back. grande pezzo degli Stone Roses. Io vi lascio con un ultimo brano che è lunghissimo, dura quasi 20 minuti. È un brano di un gruppo sempre appunto un po' simile a quello del quale siamo partiti, insomma, della new heavy psichedelia, diciamo. Però non so se esiste come termine, lo sto dando io, ma un po' così. Magari un giorno diranno che il grande critico musicale, questo 8 Hertz e questa grande radio. Vabbè, insomma, vi metto gli Heartless di San Diego, California, anche loro psichedeliconi. Terzetto, diciamo, chitarra, basso, batteria, quasi tutto strumentale nei loro dischi, un po' come gli Elders, anche se erano cantati, visto che era la cover di Jimi Hendrix. E il brano che vi metto è del primo disco, che si chiama, attenzione, ho perso i dati. Insomma, da Sonic Prayer del 2005, uscito per Gravity. La cosa curiosa è che anche loro, il terzo disco, un disco live, anche perché hanno fatto quasi tutto in realtà live, ma questo era un live col pubblico, uscito per proprio anche loro durante aspettate, mi sono perso un po', il festival molto importante del quale se ne parlava prima. Troppa roba. Tanto c'è la musichina che vi accompagna. Ecco, è il live a Rodburn del 2008 come terzo disco. Questo è il primo. Il brano si chiama Flower Traveling Man. Penso sia quasi un lato del disco. Poi continuate a seguirci, continuate a seguire Radio Wombat e 8 Hertz, sperando di portarvi a casa, in macchina o ovunque siete, un po' di musica, se non nuova, assurda, che in nessun'altra radio potete ascoltare. A presto, a martedì prossimo. Questi sono gli Heartless, Flower Traveling Man.